Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar, parte seconda, lezione 15. Un sacco di studenti sono presenti e questo è un bene. È scritto: più persone, più gloria per il Creatore. Più persone, più punti di forza. Più vettori possono essere diretti verso un obiettivo. E questo è il punto, non il numero di persone. È importante che coloro che sono qui abbiano lo stesso obiettivo, la gloria del Creatore, non per attirare i punti di forza per loro stessi. Alcune persone pensano ancora che sto parlando di questo mondo. Non tutti rispondono appropriatamente. Nella prossima lezione ho bisogno di fare domande per ricevere feedback su ciò che pensavate. Non è necessario dare risposte. Forse io do risposte. Il punto è che hai bisogno di una profonda comprensione. Non sto parlando di questo mondo. Ho parlato di cattolici e mi fa piacere se vedo che nessuno risponde. E poi so che sai che non sto parlando di questo mondo. Ho parlato del popolo ebraico. Che cosa ho detto? Che ci sono ebrei in Vaticano? Ovviamente solo come forza. La Chiesa Cattolica è un esempio, la base della Chiesa Cattolica sono gli ebrei. L'intera costruzione è l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è il fondamento come un guscio, il Nuovo Testamento. Le persone non sanno come funziona. Ovviamente sanno che ha radici ebraiche, ma l'hanno messo uno accanto all'altro e non è mai stato uno accanto all'altro. Il mondo è creato come una piramide. Non c'è il maggiore o il minore, perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Qualcosa che è dentro ha bisogno di ciò che è fuori. Un corpo ha bisogno di una testa. Il giudaismo è l'interno. Non sto parlando di religione, ma della Kabbalah, l'insegnamento interiore. E la copertura è il cristianesimo da un lato e dall'altro c'è l'Islam e il buddismo. Al momento giusto e nel posto giusto ne parlerò. Ti darò un quadro chiaro dell'intero apprendimento occidentale che ci sono, che vi è. In una foto mostrerò massoni, rosacroce, mistici occidentali e teosofi. In una foto vi mostrerò che sono tutte variazioni di una canzone. Non pensare che non sia buono perché era anche necessario. Ti parlerò anche degli insegnamenti orientali. Ti darò una grande immagine. Non io, perché nulla viene da me, non so nulla, ma ti darò una foto e qualcuno che ha un grande cervello del nostro mondo, intellettuale, che può sviluppare e essere un professore o un medico, un vincitore del premio Nobel, da quello che dico viene naturalmente dallo Zohar. l'indicherò solo perché adatto alle vostre correzioni, ovviamente. Sta a te lavorarci. Quello che sto per dirti non è mai stato detto in questo mondo. Ieri ho pensato di farlo oggi, ma 5 frasi dello Zohar sono degne più di ogni altra cosa, dopo un'altra volta. Quando parlo dei miei fratelli, parlo solo di punti di forza. Metti questo nel profondo del tuo cuore. Deve essere chiaro per te. Non sto parlando di persone o gruppi o cose del genere. È tutto sui punti di forza. Da dove provengono le informazioni che impariamo nello Zohar? Sto parlando di superiore e inferiore. C'è un essere umano e c'è il cosmo. Gnostico, filosofie occidentali, religioni, movimenti, umanesimo. Ogni cosa è di buon cuore e tutto è costruito per ospitare lo gnostico. Questo non è l'argomento del nostro corso, ma devi sapere che tutte le religioni occidentali non vanno oltre il cosmo. Solo ascolta e apri il tuo cuore. Non resistere, perché quando resisti non puoi ricevere nulla. Non pensare che sto parlando delle mie proprie credenze. Non le ho, parlo solo dello Zohar. Ricorda che tutte le altre cose non vanno oltre il cosmo. Il cosmo è una materia fine e molto sottile. Il cosmo è una forma sottile di materia dove non è presente la luce. Il cosmo è quello che sempre più spazio può raggiungere, se la persona può arrivare lì, o una cosa del nostro mondo che poi ci gira intorno. È ancora cosmo, e molto al di sotto del mondo Asiya. Come sapete, siamo l'allungamento del mondo Asiya. Porta nella tua memoria il punto del nostro mondo e poi i 4 mondi. Asiya, Yetzirah, Bria e Azilut. La tua più piccola comprensione è la Malkut de Malkut, del mondo Asiya. Asiya ha 10 Sfirot e Malkut di Asiya ha anche 10 Sfirot. Il più piccolo grado di Asiya de Asiya, e ci sono 4 mondi in più per andare, il tuo atteggiamento interiore di purezza raggiunge un livello superiore del cosmo. Capisci cos'è lo spirituale? Vedi cosa vendono come spirituale? Non pubblicizzo la Kabbalah, non scrivo articoli. Non puoi deviare un uomo dalle sue opinioni o disputare con un religioso per portarlo in un'altra posizione. Quello non lo puoi assolutamente fare. Il nostro compito e il compito del corso è quello di accelerare il tuo sviluppo. Ecco perché non prendo strade secondarie. Devi sapere direttamente di cosa sto parlando. Andiamo oltre il cosmo. Dove finisce il cosmo, inizia l'eternità. E l'eternità è anche costruire un significato gerarchico dall'inferiore, irruvidimento grossolano della luce fino all'Azilut. Tutto ciò che apprendiamo viene da Azilut. Non possiamo rimanere lì, sebbene ci sono cabalisti che ricevono luce permanente da Azilut. È scritto su Mosè che parlava con il Creatore faccia a faccia, in pieno giorno senza visioni. Questa è anche la nostra intenzione, senza visioni, senza sogni, ma faccia a faccia. Zohar parla di Azilut. Nessuna conoscenza del nostro mondo si estende allo spirituale. Ricorda questo. Non ho bisogno di provare. Non ho bisogno di provare. Sono solo preoccupato sulle tue percezioni, che sono legate da tempo alla tua educazione, eccetera. Voglio spingerti così, così capirai chiaramente cosa significa il vero spirituale. E non che qualcuno sta camminando in una foresta e improvvisamente si sente grande e crede che questo sia lo spirituale, perché non lo è. Quando impariamo Etz Chaim o Zohar, impariamo lo spirituale, e quando lo facciamo correttamente, possiamo venire in linea tra le lunghezze d'onda e fare uso delle nostre comprensioni che sono molto superiori del cosmo, perché è fuori dal cosmo. Sebbene non un oggetto materiale possa volare o essere trasmesso, quello è spirituale. Al di là di tutti gli aspetti della fisica, oltre il neutrino, questa è l'ultima scoperta e scopriranno sempre di più, ma è ancora un grossolano del cosmo. Ricorda questo e prima accetti questo, non a causa mia, non ho opinioni, ma per il bene del tuo proprio sviluppo. Persino le religioni non si estendono oltre il cosmo. La tua religione, la mia religione, per me non c'è più la religione. Ascolta attentamente. Non dico che la religione non sia buona. È solo una fase dello sviluppo di un essere umano. Mantieni le tue religioni finché ti si addice. Mia figlia è sposata da più di 20 anni e quando l'ho visitata ho visto che aveva ancora un coniglio che gli ho dato, che le ho dato qui quando aveva 8 anni. Ha ancora questo coniglio e lei si assicura e ama il piccolo coniglio proprio come la gente ama la loro religione. Naturalmente si può amare tutto ciò che si vuole amare, ma ti porta allo spirituale? Ti dà la salvezza? Io non la penso così. Gli uomini non furono ingannati. Tutti i discepoli erano brave persone. Sono cose legate al tempo. Metti questo profondo nel tuo cuore. Nessuna religione può darti la salvezza e questo è difficile da dire alle altre persone. La salvezza prende posto solo dentro di te. Succede solo quando lavori su te stesso. Solo allora puoi andare oltre il cosmo e ricevere la tua propria salvezza. È un peccato se c'è ancora qualcuno che la pensa diversamente. Sta sprecando il suo tempo. Per me non importa come lo chiami, ricorda da dove viene. Tutta la conoscenza di questa terra. Smetti di combattere, Posso capire che è difficile per te, perché per 2000 anni non hai sentito altro. Per me è difficile parlarne, perché ho la sensazione di rompere, e Hashem proibisce di rompere qualcosa, ma non posso usare le parole di altri cabalisti che dicono «Lasciali giocare, parliamo di Kabbalah, ma ancora li lasciamo giocare. Lasciamoli sposare e andare all'università, ma nel frattempo lasciamoli giocare». Chi sentirà, sentirà, e chi no. Tutti gli insegnamenti qui sulla terra, tutta la conoscenza occidentale, le filosofie, le ideologie, e non solo occidentale, anche l'orientale, un giorno ti mostrerò che esse non vanno oltre il cosmo. Il cosmo non è basso, ci sono grandi distanze. Più lontano nel cosmo, l'onda più corta l'uomo riceve. Lo stesso con le religioni. Uno è più vicino alla terra e un altro è più lontano, ma sono ancora dentro il cosmo, dentro il sensuale, dentro il fisico. Per loro è difficile rinunciare al proprio corpo, anche se hanno il desiderio di crocifiggere il loro corpo dall'interno, è ancora sensuale. Ricorda queste parole. Non ho intenzione di danneggiare i miei fratelli ebrei o fratelli cristiani o quelli che sono buddisti. Non dirò mai che la Kabbalah è la migliore, ma devi sapere che c'è lo spirituale e c'è il sensuale. Smetti di combattere, di resistere, così puoi accettarlo. Ci sei solo tu e tu sei quello che deve investigare. Era e non è mai stata l'intenzione che tu accetti le mie parole per scontato. È necessario indagare su tutte le mie parole. Lentamente vedrai la verità, la tua verità, e ciò aprirà il tuo cammino verso la salvezza. Non pensare che tutte le altre cose siano sbagliate. Tutto è necessario, ma ricorda che sono solo gusci. Come un elemento chimico, all'interno ci sono protoni e inoltre sono elettroni che sono più potenti ed eterei. Per loro è più facile produrre un contatto. I protoni sono sostenuti e sono vicini alla sorgente. Più avanti impareremo questo. Come sopra, così sotto. Tutto è costruito nella forma di 5 o 10 sfirot, il simbolo dello spirituale. È bene che tu sappia che non è solo una sensazione piacevole. È solo dove regna la vita, dove è l'assenza della morte. Quando parlo del mondo, assia sappi già, sappi c'è già l'albero del bene e del male. Fino alla fine di Briah sono tutti mondi spirituali al di fuori del cosmo, e anche se non sono abbastanza buoni, non buoni come Azilut. Puoi immaginare, fuori dal cosmo ci sono i mondi di Asiyah, Yetzirah e Briah, e tuttavia questi non sono mondi puri. Ovviamente sono spirituali, ma ci sono forze impure chiamate Klipot. Ora sto parlando della Nukva del mondo Azilut, l'ultima stazione dello spirituale puro. Da lì la luce arriva a noi e fa intagli. Puoi confrontare questo con un trasmettitore, puoi sempre più ricevere lo spirituale, non l'intellettuale o il sensuale. Tutti i guru, con rispetto perché offrono prestazioni eccezionali, ma devi sapere tutto in due cose. Il nostro mondo significa tutto ciò che appartiene ai nostri cinque sensi, e il cosmo in cui non puoi usare i tuoi cinque sensi. Quindi lì hanno bisogno dell'intelletto per fare tutti i tipi di calcoli su come usare lo spazio per uscire dal cosmo. Questo non può essere fatto con l'uso dei cinque sensi. È elevato e tuttavia ancora sensuale. Sensuale con il significato di intellettuale, dove non solo il cuore è coinvolto, ma anche l'intelletto. Sensuale è tutto ciò che non è spirituale, sebbene sia chiamato in questo mondo spirituale. I Rosa Croce affermano di essere coinvolti con lo spirituale, e non sta a noi dire che essi sbagliano. Abbiamo un altro punto di vista della spiritualità, nel senso che la spiritualità deve darti l'eternità. Per ora è abbastanza. Continuo con lo Zohar. Non sono un giudice che dice che questo è buono e quello non è buono. Devi sperimentarlo tutto da solo. Devi scoprire da solo cosa ti dà la salvezza. Ora continuiamo con lo Zohar. Pagina Dalet 4, la colonna di sinistra, 5 righe dal basso dopo il punto. È una grande informazione che si trova davanti. Faccio del mio meglio per dare tutto. E questo è ciò che lui, lo Zohar, ci chiarisce per farci sapere o insegnarci. Questo seme, l'ultima volta abbiamo parlato su questo, seme in Yesod del Zeirampin, che ha dentro entrambi, sono 5 Chassadim e 5 Gvurot. Sta davvero nel segno del patto. Segno del patto è Yesod. Perché nel segno del patto, che è Ateret Yesod di Zeirampin, la seconda parte inferiore di Zeirampin, sento che è giunto il momento di fare un disegno, ma che viene dopo. Lì, in Ateret Yesod, è l'essenza dei Gvurot, che attira 5 Chassadim, che è chiamato seme. In Genesi è scritto seme. L'albero porta seme dentro se stesso. Quando parla di Yesod di Zeirampin, lo Zohar di Sulam usa il linguaggio della Kabbalah. Per esempio, quando parla di Ot Abrit, il segno del patto, usa le parole della Torah. Quando parla di seme, usa anche le parole della Torah. In quel modo, parallelamente tra Torah e Zohar, come lo Zohar spiega, questo è il sistema operativo dell'universo. Questa correlazione è necessario affrontarla. Lo stesso con noi. Yesod nell'uomo è colui che porta il seme. Pagina 5, colonna destra, prima riga. Ma Yesod di Nukva. C'è un Yesod del maschio e un Yesod della femmina, un luogo da cui provengono i semi e un luogo in cui il seme entra. In ogni cosa che vedi, il maschile e il femminile, anche nello spirituale. Ciò che è nel nostro mondo viene dallo spirituale. Nukva deriva dalla parola Nekev, apertura. Riceve da Yesod di Zeirampin solo un'immagine dei Gvurot di lui Zeirampin. Ciò significa che non è il vero Gvurot solo una radiazione. Più tardi te lo spiegherò. Non puoi mai leggere questo commento o entrare in nessun libro, né nel libro di Matteo. Devi sentirlo, quindi lascia andare tutta la resistenza che hai dentro di te, altrimenti non potrai mai andare oltre il cosmo. Hai idea di cosa è necessario per imparare la Kabbalah? Non stiamo parlando solo per parlare o diventare più ricchi o fare più sesso o altro. Vuoi la salvezza? Purifica te stesso proprio come la Nukva per ricevere tramite il tuo sistema, attraverso la tua anima, di alzarti sopra le tue frasi, per andare sopra questo mondo e persino oltre il cosmo. Il cosmo è materia delicata, galattica, e devi affrontarlo. Ogni persona ha la forza di purificarsi per edificare i suoi Kelim, nel senso che è in grado di penetrare nel cosmo e sorgere anche al di sopra delle forze che abbiamo dato il nome di angeli. Ma questo richiede disciplina e dedizione. Solo da quella regione, oltre il cosmo, puoi ricevere la salvezza. Finché uno è sotto o nel cosmo, non può entrare in questa regione oltre il cosmo. Metti questo nel profondo del tuo cuore. Solo da questa regione puoi ricevere la salvezza. Tutte le altre cose ti danno solo il sentimento di avere ricevuto la salvezza. Ma non è vero. Pensi che sia tutto chiaro per me? Assolutamente no. Ogni giorno devo lavorare sodo, ma ho il gusto di ciò che è oltre il cosmo. Quella è la differenza. Non importa quanto grande sarà il tuo gusto, è sufficiente per risvegliare un desiderio molto più profondo. Mi sono immerso nell'apprendimento di tutto. Prima di venire nei Paesi Bassi, ho assaggiato tutto ciò che era nel mondo. Ero ossessionato con la domanda: qual è il significato della vita? Non tutti hanno questa domanda, ma potrebbe essere perché la mia anima era pronta per questo lavoro. Ho provato qualsiasi cosa, ma niente mi dava soddisfazione. Tutto era ancora sensuale fuori di me. Quando senti la parola cosmo, non pensare al cosmo fuori, ma al cosmo dentro di te. Quello è il cosmo che devi superare. Questo è l'atteggiamento di cui hai bisogno per purificare e costruire te stesso, per attraversare il cosmo. Non pensare a un viaggio nello spazio possa fare questo. Può essere fatto nella tua mansarda. Lui dice che la Nukva riceve da Zeyrampin solo un'immagine di Gvurot. La parola ebraica di Yukna significa ritratto. Ecco perché ha detto: pertanto è chiamato Yesod della Nukva, la femmina Yesod, solo di Yukna de Brit. Non Ot Brit, il segno del patto, ma un'immagine del patto. Lo stesso con Chava, Eva, lei era un'immagine del patto, ma il patto fu fatto con Adam. Ora abbiamo finito il secondo capitolo e ho lo stimolo di fare un disegno. Faccio un disegno solo quando sento l'impulso. Abbiamo già imparato su Binah. Da Binah arrivano 5 Chassadim. Questo è importante, perciò questa ripetizione. Ci sono molti problemi qui, ma lo mantengo semplice. Binah dà questi 5 Chassadim a Zeyrampin e lui li dà alla Nukva. Keter, Kokmah, Binah, Zeyrampin e Malkut. In un certo modo Malkut è la più importante. Tutto il bene che viene dall'alto è per Malkut, ne ha bisogno. Più riceviamo, più l'atto della creazione si sta attuando. Tutti gli altri Sfirot superiori sono solo qualità della luce, e Nukva ha bisogno di loro per riempirli di tutto il bene. Binah dà 5 Chassadim a Zeyrampin. I 5 Chassadim sono Chesed, Gvurah, Tiferet. Nel disegno vedi destra e sinistra perché ci sono 2 punti di forza, Chassadim e Gvurot, e c'è la linea nel mezzo. Non preoccuparti, gradualmente ti diventa chiaro. Tiferet è nel mezzo, a entrambi, Gvurah e Chesed. C'è Netzach vittoria, Hod gloria, Yesod fondamento, Malkut regno. Invece di Malkut usiamo Nukva proprio come lui. Zeyrampin ha 6 Sfirot e la sua Nukva. Nukva è quella che ha bisogno di costruire. Dall'inizio della storia impariamo che la Torah parla solo della costruzione della Nukva, che è Malkut. Prima la Nukva ha bisogno di costruire, significa che le serve un corpo per costruire tutte le sue forze per ricevere la luce. Dovremmo fare lo stesso, costruire Kelim per ricevere la luce. Solo per mezzo dello Zivug possiamo ricevere la luce. E sempre in questo modo, la comprensione ha bisogno di Zivug. qualsiasi decisione necessita di zivug. Non puoi mai esaudire il tuo desiderio senza zivug, il desiderio e il desiderato. Non preoccuparti, lo sentirai. Binah dà a Zeirampin 5 Kassadim. Come non lo dice, ma te lo dirò. Prima ricevi le informazioni con il tuo intelletto, in modo da non sentirle, ma lentamente le informazioni affondano. Chesed, Gvura e Tiferet. Chesed è il primo che riceve i 5 Chassadim. Chesed è la sfira più alta di Zeirampin. Chesed prende il nome, prende il Chesed de Chesed. Questa è la sua parte. Lui riceve il meglio, il massimo per se stesso, e il resto lo passa a Gvura. Il disegno a destra e sinistra, ma può essere fatto anche da sopra a sotto. È esattamente lo stesso. Gvura riceve 4 Chassadim perché Chesed ha tenuto per sé la parte migliore. Significa che la parte era in accordo con la sua alta posizione. Gvura prende una parte per se stessa, Gvura di Chesed. Questi 5 Chassadim. C'è Chesed de Chesed, Gvura di Chesed, Tiferet di Chesed, Netzach di Chesed e Hod di Chesed. Ora puoi vedere i Sfirot di Zeirampin, hanno solo Chesed, misericordia, e non Chochmah. Chochmah è la qualità del superiore, di Keter e di Chochmah. Binah non ha bisogno di Chochmah, lei è già piena di Chochmah. Non metterti fretta, è importante che tutto diventi chiaro per te. La Gvura di Zeirampin prende la Gvura di Chesed per lei e trasmette 3 Chassadim a Tiferet. Cosa fa Tiferet? Lei prende Tiferet di Chesed e le ultime 2 lei le passa a Netzach. Netzach prende il Netzach di Chesed e lui passa sull'ultima parte di Chesed a Hod. Quindi Hod ha solo Hod di Chesed. Riesci a vedere questo? Per ora questo è abbastanza per sperimentare. Qualunque cosa viene da Binah arriva in questi 5. La qualità di Zeirampin è 5 Chassadim. Pratica tutto l'apprendimento nella tua vita quotidiana. Il passo successivo è Chesed prende Chesed de Chesed e trasmette 4 Chassadim a Gvura, più alcune tracce di lui. Se dai a qualcuno un regalo, ricorda di non dare solo il dono, ma anche qualcosa di te, in forza e non materiale, naturalmente, perché non è il nostro argomento. Il materiale è solo un'espressione di ciò che dai. Ad esempio, dai a qualcuno dei soldi e non solo dai soldi. C'è qualcosa che chiamiamo l'atteggiamento interiore. Proprio come Chesed che dà all'inferiore, alcune tracce di se stesso, o solo come una madre che nutre suo figlio. Non dà solo latte, ma anche calore e amore. Il bambino succhia al suo seno e lei parla e accarezza il bambino. Il bambino ha solo bisogno di latte, ma ciò che la madre dà è tanto importante quanto il latte, perché un superiore desidera dare all'inferiore nello spirituale. Lo stesso con il sistema operativo. Mettilo nel tuo cuore. Anche quando una persona impara lo spirituale, è capace di dare di più in questo mondo, non solo denaro, ma dall'interno. Per dare ha bisogno di sforzo. Vorrà da tre chassadim a Tiferet, più il delta di Gvura. Netzach dà ciò che appartiene a Hod, più il delta di Netzach. Quindi vedi che tutti danno qualcosa di se stessi. Binah dà cinque chassadim a Zeirampin, e tutto cade nelle appropriate sfirot, perché ogni cosa ha la sua propria forza. Disegno 15. Delta significa differenza. Dopo tutto questo va a Yesod di Zeirampin. L'intero delta sono ora nello Yesod di Zeirampin. Yesod non può ricevere tutti questi punti di forza, solo un po' di gusto. Non può ricevere l'esatto Chesed, considerando la forza, ma solo un po' di gusto. Poiché Yesod è inferiore, non può ricevere qualitativamente e quantitativamente ciò che Chesed riceve, eccetto i delta. Lentamente non c'è fretta. Nei momenti in cui puoi capire questo, sai che hai percorso miliardi di miglia attraverso il cosmo dato dal tuo atteggiamento. Sintonizzati sempre di più e lascia andare la resistenza. Non voglio convincere nessuno. Ho solo il desiderio di portarti sul tuo percorso di salvezza. Devi trovare la salvezza. Non posso fare la salvezza per te. Anche se mi dai miliardi di euro, non posso fare la tua salvezza. Il primo Chesed ha ricevuto il proprio Chesed. Chesed de Chesed, e da quattro chassadim più il delta a Gvura. Gvura riceve questo e lei trasmette tre chassadim più il suo delta e il delta di Chesed al di sotto. Tiferet dà due chassadim più tre delta in basso. Netzach dà un Chesed più quattro delta. Hod dà a Yesod cinque delta, perché non c'è più nulla. Binah dà cinque chassadim a Zeirampin, ma sa che Zeirampin non può trasmettere cinque chassadim. Che dire dell'albero di vita? Che dire della gerarchia della forza? Qui vedi quando la forza scende giù e diminuisce, perché l'inferiore ha meno forza, può ricevere dell'alta luce sottile. Yesod riceve solo cinque gusti di Chassadim, ma non i punti di forza, ma è abbastanza per Yesod. Domanda, tutti i delta vengono trasmessi giù o si tiene ogni sfira un pezzo del delta prima che lo trasmetta? Risposta: una sfira passa solo il suo sapore. Domanda: se ogni sfira tiene una traccia per se stessa, è rimasto un po' per Yesod? Risposta: qui vedi quanto è difficile lo spirituale. Un superiore non manca mai di dare a un altro. Questo è difficile da capire con l'intelletto. Una persona che studia la Kabbalah da molti anni viene da me e mi chiede: il Creatore ha dato la Torah al popolo ebraico. Egli rimase a mani vuote. Sempre il superiore dà all'inferiore, ma ciò che fa non viene mai da lui. Quando una madre nutre suo figlio, dà qualcosa della sua essenza, dà qualcosa dal suo corpo, ma un superiore dà solo della sua abbondanza ad un inferiore. Nulla scompare nello spirituale. Un superiore dà all'inferiore e tuttavia ha abbastanza. Puoi paragonarlo al fuoco. Cerca di superare il pensiero con il tuo intelletto terreno, altrimenti la salvezza non sarà la tua parte. Allora rimani nelle leggi terrene, fisiche. La fisica ci insegna che quando si sostituisce una tazza, il posto precedente è vuoto. O quando versi qualcosa dalla tazza, la tazza ne ha di meno e un'altra ha di più. È scritto: se qualcuno spende soldi per Shabbat e le vacanze, verrà compensato. E quando qualcuno non spende soldi per Shabbat, non può costruire i suoi kelim. Come puoi avere fame di più se non puoi dare? Un superiore che dà a un inferiore non riceve di meno. Questo è compreso? Lascia che ti faccia un esempio proveniente da Yehudà. È difficile da capire. Ci è voluto molto tempo prima che ho potuto sperimentare questo. Supponiamo di voler accendere una sigaretta e fare uso di un fuoco. Il fuoco diventa meno perché hai usato il fuoco per accendere una sigaretta o una candela? Certo che no. Ricorda questo. Finché non c'è esperienza, accetta, lascia andare la resistenza e gioca con essa. Questa è una nuova dimensione e hai bisogno di questa dimensione, altrimenti non ci sarà salvezza. Devi accettare le leggi dell'universo, sapere che c'è bisogno dell'esperienza, altrimenti non ci sarà salvezza. Riesci a capire cosa intendo? Questa è una nuova dimensione, la sua logica divina, e tu devi accettarla. Non è così difficile, devi solo lasciare andare le tue convinzioni per quanto riguarda il terrestre. Naturalmente ne hai bisogno per il tuo lavoro, la tua parte di società, ma non per lo spirituale. Domanda: se Chesed dà con alcune tracce di se stesso, diventa meno? Risposta: da una parte un superiore dà ciò che è legittimo per l'inferiore. Chesed de Chesed prende Chesed de Chesed, ma la sua gvurà di Chesed appartiene a un'altra e lui la trasmette. Non appartiene a lui. Quello che è suo è solo ciò che è in accordo con la sua qualità, ossia Chesed de Chesed. Tutti gli altri li trasmette. Prova a vederlo in questo modo. Tutto questo che ti dico è dalla mia posizione, è dalla mia comprensione di ciò che è la mia essenza dell'insegnamento dello Zohar. Trasmetto solo l'esterno, ciò che devi capire, e non quello che io capisco. Posso darti uno schema per mostrare come è semplice la matematica di Einstein. Posso dare uno schema di una sfera, ma ne hai bisogno? Per ora il più importante è che conosci il processo, le leggi dell'universo. Più avanti vedrai più dimensioni e avrai più gusto. Studente, in un certo modo la conoscenza che trasmetti proviene dallo stesso principio, non diventa meno. Risposta, infatti, dopo la lezione ovviamente mi sento stanco perché uso parte della mia energia, ma è tutto dall'esterno. L'interno è sempre lo stesso. Ricordalo e mettilo nel profondo del tuo cuore. Quando dai, non essere mai esausto. È così importante che tu abbia il gusto di dare e realizzare che non ne avrai di meno. Questo è un enorme segreto per lo sviluppo della tua realizzazione. Non importa quello che dai, anche i soldi. Ovviamente devi stare attento con i soldi, non reagire in modo eccessivo. Lo stesso con le attenzioni e così via. Tieni sempre a mente qualunque cosa tu faccia. Fallo in modo puro e non affidare mai il tuo cuore a un altro. È così sbagliato abbassare la tua essenza. Rimani sempre in contatto con la tua propria forza e da quel punto puoi dare. Più puoi dare, più puoi ricevere. È scritto: a colui che dà sarà dato, e colui che non dà sarà portato via. È lo stesso principio. Nel cristianesimo usano molti buoni principi, ma la salvezza non viene dalla bocca. Lascia che le parole ti penetrino. Nulla diventa meno. Il superiore dà all'inferiore, sempre. Ora continuiamo con la seconda parte della lezione. Cerco di dare meno disegni possibile, ma a volte è necessario, quindi ti do il disegno successivo. Yesod ha ricevuto 5 chassadim. Cosa ci sta insegnando lo Zohar? Lo spirituale non è in cielo. Hai bisogno di comprensione. Proprio come un vader spaziale, attraversiamo tutti il cosmo mentre siamo seduti qui. Lo Zohar ci insegna che Yesod de Yesod è destra e il suo Ateret Yesod, la sua corona, è nella sinistra o in basso. Perché la corona è sotto? Questo lo imparerai più tardi. Per ora è sufficiente sapere che Ateret Yesod è sotto o a sinistra. Ciò che è sotto è nella sinistra. La luce va da destra a sinistra. Tutti e 5 i delta vanno a Yesod. Danno 5 chassadim, ma il nome cambia. Sono chiamati delta considerando Zeyrampin. Erano gusti, punti di forza dall'esterno. Lui ci dice che prima ci deve essere uno Zivug. Tutti e cinque, Kesed, Gvura, Tiferet, Netzach e Od, trasmettono senza Zivug perché essi sono uno. Nukva e Zeyrampin sono punti di forza diversi. La forza di Zeyrampin è Hasadim e la forza di Nukva è Gvurot. C'è una legge spirituale che ci insegna che quando due oggetti spirituali diventano diversi in termini di qualità, si separano. Nel momento in cui essi sono in accordo, diventano uno. Yesod riceve 5 Hasadim, 5 Delta, ma per Yesod sono 5 Hasadim. Proprio come una madre che nutre il suo bambino con il latte. Per il bambino è cibo, nel suo latte c'è qualsiasi cosa che lei ha mangiato, ma il bambino non riceve il cibo dato, ma l'essenza del cibo. Quando sto imparando lo Zohar, sono come un bambino che riceve delle grandi anime che sono vicine al Creatore. Quello che mangio lo trasmetto. Stai ricevendo da me lo stesso cibo. Ricevo da loro e loro tornano a Ein Sof. Yesod riceve 5 Hasadim ed è molto meno che Binah ha. Binah ha anche 5 Hasadim solo da un'altra qualità. Ora lei dà a Yesod, così lui può trasmetterlo a Nukva. L'intero significato è che Nukva, che è il regno dei cieli, quello lei riceve. È il desiderio del Creatore di mostrare l'intera creazione la sua gloria, per lasciar loro assaggiare la luce. L'ultima stazione è Malkut di Nukva. Lei non sta con Binah. Malkut è quella che ha bisogno di Hasadim con un piccolo pezzo di Kochma. Lei è quella che deve ricevere. Che deve ricevere questo. Questa è la creazione. È Yesod che riceve 5 Hasadim e li deve trasmettere a Nukva. Sulam ci insegna l'interazione. Lo Zivug ha luogo a Yesod. Yesod trasmette 5 Hasadim al suo secondo lato, il lato femminile, o ciò che è sotto di lui. Yesod ne ha 2. Il maschile Yesod e Lateret Yesod, la sua femmina. È scritto nella Torah, non è buono per un essere umano stare solo. Non è buono, e non è scritto che è male, ma non è buono. Quando leggi non è bene, non significa che sia male. Non è buono, dovrebbe essere meglio, più conveniente se uno dovrebbe essere con un'altra persona, ma non necessariamente. All'interno di Yesod c'è il maschio e la femmina, quindi non ha bisogno necessariamente di una donna. Non che uno debba sposarsi, come dicono le religioni. Supponi di vivere da solo e di esserti unito con il superiore, in modo che hai trovato la persona reale. Tu hai trovato il Creatore. l'aspetto maschile dentro te stesso è attivo, ora, e ti dà qualsiasi cosa. Ora puoi prendere da Zeyrampin e Malkut, il che significa che hai tutto il piacere di ciò che è nel mondo. Spirituale, non solo spirituale. Tutte le tue cellule funzioneranno e riceverai un enorme piacere. Questo piacere è molto più prezioso dei piaceri terreni. Una volta entrato nel primo grado del reale e del vero spirituale, sarà sorprendente. Anche l'incontro con la tua Malkut de Malkut è straordinario. Non hai bisogno di più. Nessun George Clooney o Brad Pitt. Nel momento in cui hai fatto il tuo primo passo, capirai da dove provengono i veri desideri. Lo stesso per l'uomo, vedranno le donne con altri occhi e le tratteranno in modo diverso, non come un oggetto sessuale, ma così diverso. Puoi avere un contatto sessuale e in seguito iniziare a imparare lo Zohar. Ricorda che non ha nulla a che fare con la carne. Questo è un segreto profondo che devi imparare. Ha bisogno di pratica. Puoi avere un contatto sessuale e in un certo modo questo ha bisogno di molta energia. Ma ora sei pronto e inizi a conoscere lo spirituale perché l'energia è ancora lì. Il vero e reale spirituale dà così tanta forza e un piacere eterno, ma hai bisogno dell'esperienza, altrimenti non puoi capire di cosa sto parlando. Devi imparare questo grado per grado, gradualmente, perché nessuno può riempirlo per te. Devi fare questo da te stesso. Lentamente lascia che questo ti penetri. Yesod da se stesso, al suo Ateret Yesod, il suo lato femminile o il suo lato sinistro, Gvurot. Yesod è Hasadim e Yesod crea il Masach. Ricordi ancora? 5 punti di forza del Masach. La luce colpisce il Masach e ciò dà riflessione. Le riflessioni sono le Gvurot ed entrano nel suo Hasadim. Non è difficile, l'unica ragione per cui lo trovi difficile è perché vuoi capire con il tuo intelletto, con il tuo cervello. Chiudi il tuo intelletto e tutto ciò che sto chiedendo a te. Perché? Perché questo è l'unico modo per ricevere ciò che il Creatore desidera darti. Ma abbiamo l'intelletto e l'intelletto ci dice che non puoi rinunciare, che perderai ogni cosa. Nulla sarà portato via. Non perderai il tuo intelletto, è lì e lo manterrai. Ciò che fai è passando in una nuova dimensione. E non è grandioso? Guardati intorno e vedi come si muovono le persone. Vedi come vivono le loro vite. Non sprecano la loro vita? Certo che no, ma per me sento che avrebbero potuto avere molto di più. Ma poiché non si prendono la loro libertà e non si conformano con le leggi dell'universo, ci vorrà molto tempo per loro di sperimentare la realizzazione. Nel Talmud è scritto: chi è uno sciocco? Chi perde ciò che è a lui dato. tutti i punti di forza dello Zohar sono qui e sono dentro di te. Non hai bisogno del binocolo per imparare qualcosa. Non c'è nessuna istituzione o una religione che può darti la salvezza. Il lavoro deve essere fatto da te stesso, nel senso che devi renderti adatto per le leggi dell'universo e ricordare che non c'è scomparsa nello spirituale. È stato dato per noi da sopra, ci è dato dall'alto e così lo sarà per sempre. Una volta che sperimenti queste leggi, sperimenterai una libertà oltre la tua immaginazione. Ora sei ancora uno schiavo ed è orribile essere uno schiavo. Tutti i soldi, tutta la ricchezza materiale che sperimenti qui in questo mondo non hanno valore. Ci sono molti insegnamenti che promettono molto, ma sono ancora dentro il cosmo e sanno che il cosmo non porta salvezza. Devi andare oltre il cosmo e non pensare di non poterlo fare. Ognuno di noi può fare questo. Nella mia vita passata ho detto a mia moglie: facciamo cose carine, godiamoci questo mondo. Ma poi è successo qualcosa e ora sono seduto qui con una lunga barba e le persone intorno a me dicono: chi è lui? Una volta era un uomo in piedi e ora? Tutte le Gvurot provengono dalla Teret Yesod, la corona di Yesod. Verrà un giorno quando tu sperimenterai. Ti ho parlato della circoncisione, prima nudo e poi il taglio. Certo che è spirituale, non pensare diversamente. Non c'è più bisogno al giorno d'oggi di una circoncisione. A Teret Yesod da Hasadim e le Gvurot sono da lei. Lei fa i cancelli e lui entra. In Yesod c'è una matrice, un esempio di quanto accadrà nella Nukva. Il superiore ci ha dato un esempio. Dobbiamo essere attenti, lentamente, perché non ho mai sentito di questo esposto e devi sapere che è molto difficile trasmettere il reale e vero spirituale. Yesod dà al suo Ateret Yesod. Fanno zivug e come risultato le Gvurot fanno cancelli in cui può venire alla luce di Hasadim, seguita dall'interazione, perché l'Ateret Yesod risponde essendo ricettivo e ciò causa il sollevamento della luce Gvurot. Se non ci fosse la ricettività non potrebbe succedere nulla, ma ora, a causa della sua ricettività, lui fa dei cancelli in cui può venire la luce di Hasadim. Non pensare che sia lo stesso Hasadim di sopra. L'esterno, ed entrano i cinque Hasadim, e ovviamente ciò che entra, la Teret Yesod, è inferiore di ciò che è sopra, a ciò che è sopra. Quello che scende è sempre meno perché in quanto qualcosa che è più basso ha meno forza. Lui chiama lo Yesod Ot Brit, il segno del patto. Questo è il patto tra Avaya, il creatore, e la nazione di Israele. Qual è il significato del creatore? Questa è la forza di Zerampin e niente di più. Zerampin, nella sua qualità come Yesod, va a Malkut, che è in Israele in forza. Questa nazione ha la missione di portarsi in accordo con i punti di forza di Zerampin e Malkut. Qual è stata la promessa fatta a loro? Cosa riceverebbe questa nazione? Studente, il mondo a venire. Qual è il mondo a venire? Tutto ciò che è oltre il cosmo è il mondo a venire. Come può essere capito? Sii aperto, così può penetrare. Uso solo parole, parole di questo mondo, ma spetta a te ascoltare e comprendere queste parole. Sappi che siamo arginati in questo mondo. È scritto nella Torah: il popolo muoveva due montagne, una da questo lato e una dall'altro lato. Quando si sono avvicinati essi, Israele si fermarono presso il Giordano, e una metà era su questo lato e una metà era sull'altro. Cosa ha detto Mosè? Oggi ricevi entrambi, significa le benedizioni e le maledizioni. Scegli tu stesso quello che vuoi. Qual è il significato esatto di una maledizione? Maledizione significa che vivi qui, su questa terra, senza il superiore, che non fai nessuno sforzo per raggiungere ciò che è oltre il cosmo. Questa è la maledizione nel nostro mondo. Nessuna connessione con il superiore. Il superiore è la vera realtà che inizia oltre il cosmo, il che significa che qui è il reale contatto con il creatore. Tutte le altre cose sono ancora un simbolo dello spirituale, ma non è lo stesso spirituale. Quindi lavora sodo su te stesso. Certamente hai i tuoi punti di vista, ma crei più prospettive per vedere da diversi punti di vista, che ti porteranno al tuo interno e alla tua libertà. Non dico che ciò che sta accadendo nel mondo sia sbagliato, è solo uno spreco di tempo. Le nostre vite sono come giorni. Qualcosa può essere a lungo, ma è come giorni. Ad esempio, hai 35 anni e la vita è buona per te, ma c'è di più. Avere il desiderio di andare oltre il cosmo, così riceverai le benedizioni. Le benedizioni vengono solo da oltre il cosmo. Domanda: c'è una connessione tra la Sfira Gvura e i Gvurot? Risposta: certo, le Gvurot sorgono da Gvura. Viene da Atik. L'inizio è in Nazilut. Qui è la causa di tutti i punti di forza. Tutto a suo tempo. Vedrai quanto è grande l'edificio del Creatore. Ora Yesod ha fatto un tipo di stimolazione, così la sua metà inferiore, la sua parte femminile, porta su la luce. Ricorda ciò che è inferiore, viene da sotto, è femmina. Ciò che viene da sopra è maschile, luce più diretta e più sottile. Da Yesod cinque Chassadim vengono e da Ateret Yesod vengono cinque Gvurot. Sulam ci insegna che cinque Chassadim e cinque Gvurot insieme sono come seme, Zera in ebraico. Perché seme? Perché entrambi hanno il maschio e la femmina, e quella miscela di maschio e di femmina è ora seminata nella nukva. Era tutto nel Yesod di Zerampin, e ora c'è lucentezza alla nukva, che significa che ora la nukva può ricevere. Lo riceve come lucentezza e non come uno zivug. Questa è l'immagine di Brit. Non è il patto stesso proprio come con Yesod, solo un'immagine perché a lei mancano i punti di forza. Questa miscela di 5 chassadim e 5 gvurot è chiamato seme zera, zera. È scritto nella Torah. È scritto nella Torah e il Creatore ha creato alberi aventi seme. Ciò si riferisce a ciò che abbiamo imparato e non letteralmente agli alberi. Allora ti stai ancora sfidando. La Torah è scritta nella lingua degli uomini. Sii aperto e lascia che queste informazioni affondino e si consumino. Non combattere o avere il desiderio di disegni che sono così tecnici. Quando un disegno ti aiuta è ok, altrimenti non usarlo. Fai attenzione a fare cose meccanicamente. Non è sbagliato, ma fai attenzione. Prima ho imparato in Israele così tanti disegni che ho pregato per dimenticarli. Ho chiesto al superiore il permesso di dimenticare tutti quei disegni. I disegni saranno scolpiti dentro di te come punti di forza, ma qui, Sulam, ci dice che non abbiamo bisogno di disegni. Ma se ti aiuta per il momento è ok, ma fa attenzione. Nella parte inferiore della pagina è scritto Maarot HaSulam, la visione di Sulam. La prossima volta finiremo con Gimel e inizieremo con la visione di Sulam. Ci darà una spiegazione sorprendente. Qual è il significato del numero 10 e del numero 13? Quali sono le sue connessioni? Eccetera. E tutti noi riceveremo enormi punti di forza di questo. A pagina 32 imparerai il significato più profondo dell'alfabeto ebraico. Quali sono i loro punti di forza? Questo è per il futuro. È bene sapere in che direzione andiamo. Quello che vedi, lo spirituale, è più di un buon sentimento. Non dovrebbe importare dove ti trovi, o nella linea destra o nella linea sinistra. Tutto ciò che conta è che puoi andare oltre il cosmo. Se sai come funziona e il reale significato, puoi usarlo anche quando sei in riunione. Non che sprechi il tempo del tuo capo, ma alcuni lampi di andare oltre il cosmo sarebbe grandioso. Ora può succedere, se ottieni molto dalla riunione, lasci e fumi una sigaretta o si va in bagno, ma puoi anche andare oltre il cosmo. Più ti senti collegato con la Kabbalah, più punti lampo riceverai e potrai usarli in quei momenti. Ricorda che dovunque puoi penetrare un pezzo di carne o un pezzo di materia. Lo spirituale è assente. Certo, può esserci un'immagine dello spirituale, ma non è lo spirituale. Metti questo profondo nel tuo cuore. Lo spirituale è solo lì dove nulla della nostra natura può penetrare, né una pietra, né una pianta, né un animale, né un essere umano. C'è la salvezza. Non prestare attenzione a un nome o a un altro, perché trascuri il lavoro dei tuoi kelim. L'altro probabilmente l'ha ottenuto per se stesso. Non che tu dici che ha conquistato il mondo e tu sei di lui. Ha conquistato qualcosa e tu gli credi, e ora lui è quello per te. Non pensare che sia sbagliato, ma mostra un atteggiamento immaturo. Di a te stesso: voglio avere la stessa vittoria di ogni persona che ha superato. Potrebbe essere un'altra persona che ha conquistato se stesso, ma ora devi pensare che lui sia Hashem. Devi conquistare te stesso proprio come il nome che ti hanno dato per più di 2000 anni. Sei il conquistatore e smetti di credere che possa farlo per te. Di: ho conquistato il mondo in nome dell'eternità. Non utilizzare il nome di un'altra persona che ha preceduto. Anche lui era un essere umano fatto di carne e sangue. C'è stato e non ci sarà mai qualcuno che ha avuto un corpo glorificato. Certamente alcuni di più e altri meno, ma sei tu che devi sforzarti di liberarti dalle emozioni più basse. Lascia che la luce ti penetri e sperimenta lo spirituale, che significa Chassadim. Prima alza le Gvurot, così puoi venire in contatto con il tuo Zeirampin, perché è la tua Nukva che devi portare a Zeirampin. Di conseguenza ricevi Chassadim e la tua essenza sarà Chassadim. Il prossimo passo è ricevere Chokhmah nei tuoi Chassadim, e quella è la salvezza. Non importa se sperimenti questo solo per un secondo. Ricorda che il tempo diventerà più lungo, più forte e più coerente se sei pronto. Sappi che tutto ciò che ricevi è un dono dall'alto. E dall'alto sanno se sei degno per ricevere, e se lo sei lo sarà continuamente. Cosa fornisce la costanza? Cosa prevede che restiamo nella luce? Quando imparo lo Zohar sviluppo il mio lato sinistro, il mio lato destro. Cosa prevede che sperimentiamo la luce e ci avviciniamo alla nostra salvezza? Studente, la disciplina ci avvicina alla nostra salvezza, intagli come risultato per il nostro lavoro. Intagli sono opera del creatore o della luce. Kavanah o intenzione: maggiore è la qualità dell'intenzione, più pura sarà la donazione. Più intenzione significa che hai più intenzione di dare, o in altre parole, prima hai dato l'1% dei tuoi punti di forza, e poi il 5%, e poi il 10%, fino a che sei arrivato al 100%. L'intenzione è lo strumento che ci viene dato, così possiamo ricevere sempre più luce. E attraverso questa persistenza e l'apprendimento dello Zohar, o attraverso il tuo stile di vita aumentando o imponendo certe restrizioni, puoi arrivare a una meravigliosa fiducia, confidenza e credo. Non nella semplice credenza, ma in tagli fatti per mezzo delle tue intenzioni ti danno la forza. Per quel motivo hai sempre più spazio per ricevere la luce. Ogni giorno offre nuove esperienze, nuovi intagli. Nuovi intagli significa nel posto del desiderio per ricevere nei Kelim. Siamo nati con i Kelim per ricevere, ma l'intero significato è che trasformiamo i nostri Kelim. Niente altro ci viene dato. Il Creatore ci ha dato solo i Kelim per ricevere. Non c'è niente di sbagliato nel ricevere, ma dobbiamo fare lo sforzo, Kavanah, fiducia e credo per trasformare i Kelim di ricevimento in Kelim di dare. Dare significa non dare semplicemente, ma ricevere per dare. Ricevere con la Kavanah di dare è già dare. Presta attenzione, dare non significa che dai e non devi ricevere. Se ti manca la forza, dai e non ricevi. Quando hai più forza, puoi ricevere per dare. Ancora sta ricevendo, ma come una forma superiore di dare. La ricezione kosher non significa per te stesso, ma perché il superiore ha il desiderio di dare. Supponiamo che Yesod abbia il desiderio di dare alla tua nukva e tu dici di no. Significa che ti manca la forza. Non ricevere per te stesso. Costruisci la forza di ricevere per il superiore che darà soddisfazione ed è perfetto. Ricevi per dare al superiore, quello è il vero dare. Pratica questo e sperimentalo in ogni situazione. Tutte le volte poniti questa domanda. È questo il modo kosher di dare? Ricevo in modo kosher? Impara questo e la luce e il piacere saranno la tua parte. Nemmeno gli dèi, nessuno, nemmeno gli dèi, possono lavorare contro di te se continui a lavorare su te stesso. Chiedi la salvezza e riceverai la salvezza. Nessun punto di forza può fermarti finché continui a lavorare su te stesso. Chiedi per la salvezza, il desiderio per la salvezza è agire in quel modo. La riceverai assolutamente. Shalom.